e siamo qua come l'anno scorso a quest'ora, stessa spiaggia, stesso mare. No, c'è una persona in più, in realtà i nostri ospiti sono poi arrivati tutti, anche se due si erano un po' persi nelle lande della nostra tentacolare città. Eh sì, no, ma questo è dato dal fatto che nessuno a Radio Città Fujiko ha un iPhone e dunque nessuno sa che se tu cerchi Radio Città Fujiko su Maps ti riporta in via, come era, via del Giambologna. Del Giambologna, che devo dire è più artistico e più a tema rispetto alla puntata di via Zanardi. Senza nulla togliere, al sindaco del pane, per carità. Però. Allora, pensavo fosse il personaggio di Pazienza. Ah no, forse il personaggio di Pazienza. Senza nulla togliere a Zanardi di Pazienza, e per carità, Verde Matematico, che è uno dei cult, no, della serie. E verde come la tua camicia. E stiamo parlando con Enrico Forneroli, il gran colpevole di tutto quello che diremo stasera. È vero, non l'unico, ci sono dei correi che qua ti circondano, esatto. Che sono Carmen Lorenzetti e Giuseppe Lufrano, a cui chiediamo di abbassare il ventilatore perché fa un gran casino. È il ventilatore. Mettilo per ultimo, nel penultimo tipo. Guarda, ecco. Così va già meglio. Sì, no, così era spento. Così. Quindi non era, no, perché il condizionatore, era il ventilatore di Lufrano, sì. È una puntata di Lufrano, cioè si è trovato qui è diventato un paesaggio sonoro. Un ventilatore da casa. Come no? Io l'ho visto che l'hai portato su per le scale. Comunque, se devo dire sinceramente, mettendomi nei panni degli ascoltatori, anche così, ma fa un po'... qua gli ascoltatori vanno anche un attimo educati, non perché sono, è diventato un paesaggio sonoro di Luc Ferrari. Esatto. Ah, beh, quindi, allora, paesaggi spaventosi. Com'è che la musica di sottofondo non ma appare? Perché abbiamo ma già perché questo c'è il ventilatore. Questo ritmo fantastico. No, comunque noi siamo qua leggendo il CD, ecco, per parlare del massimo della sperimentazione artistica, perché siamo nella settimana del... Io la posso chiamare, la chiamo con un nuovo nome, la piccola White Week. White Week? Perché, cioè, la piccola Week? White, okay. Week, perché ricorda un po' l'Art City White Night, perché ci sono tutte le gallerie che fanno tutte contemporaneamente qualcosa, tutti i curatori che impazziscono a girare per tutti, arrivano alla fine di questa settimana, un po' come nella Tre Giorni di Arte Fiera, che trova il suo culmine nella White Night. Però è piccola perché sono più piccoli gli autori. Perché diventeranno grandi e parteciperanno alle prossime White Night. Esatto. Alle prossime White Night. È tutta una scala proprio che funziona. Di bianco così. In bianco. Di bianco in bianco. Ogni tanto si dorme anche, no. E, va bene, quindi stiamo per presentare Open Tour. Ci siamo arrivati. Adesso ho capito cosa succedeva a noi, a me e a te. Che quando io mi sposto di là si scartola tutta la scatoletta e non sentiamo più niente, mentre invece i nostri ascoltatori ascoltano, per cui sanno anche di questi vostri dialoghetti che distraggono un po' al grande tema, esatto, della puntata. E quindi Open Tour, avevamo l'anno scorso esattamente gli stessi protagonisti, perché c'era Giuseppe Lufrano, Carmen Lorenzetti, ma è cambiato il direttore dell'Accademia. E cosa è cambiato quindi Open Tour? Cambiato in Open Tour? Beh, è cambiato qualcosa? Intanto è due settimane in avanti, ma non è colpa sua. Ma non è colpa mia, e quindi prometto che prossimamente torneremo ad altre latitudini e longitudini. Esatto. No, cos'è cambiato? Semplicemente niente. Sono tornato e, visto che 11 anni fa abbiamo avuto l'idea di istituire questa settimana, questo evento, tra l'altro appunto con Beppe, anche con Carmen poi, ma con Beppe e con le gallerie bolognesi abbiamo proprio lanciato quest'idea, mi è sembrato naturale dire bene, torno in barca e adesso vediamo di raggiungere il prossimo approdo, ecco, questo è. Quindi sono contento di riprendere qualcosa che avevo... Che avevi creato. Sì, ma ideato. Che poi alla quale avevo partecipato, ma a quel punto con altre cose, non invece nella totalità, e quindi no, sono molto contento. E niente, abbiamo iniziato veramente, cioè una giornata molto intensa. Tra l'altro Open Tour inizia ufficialmente domani. perché oggi è l'anteprima, oggi abbiamo presentato appunto l'edizione di quest'anno, ma in realtà è appunto dal 24 al 29 ed è appunto da domani si inizierà con gli eventi in accademia o fuori dall'accademia che appunto fanno parte del nostro programma così ricco. E dunque il Capanown che sta succedendo adesso è una preview. Esattamente, esattamente. Abbiamo fatto la preview con Francesca Germandi oggi pomeriggio, il Capanown oggi pomeriggio alle 6 e quindi niente, siamo già in realtà completamente nei ritmi, ma ad essere, diciamo, siete ancora pronti per prendergli gli adesivini da collezionare da domani di Open Tour. E quindi domani qual è l'appuntamento da non mancare? Tutti, bisogna essere ovunque contemporaneamente o c'è un esattamente di... no, bisogna essere ovunque. Uni e trini. Uni assolutamente e trini. Uni e centine. Quanti eventi ci sono numericamente, Carmen? 29 gallerie. Traspazi e gallerie. 29 traspazi e gallerie. Poi ci sono dei progetti speciali e poi in realtà sì, c'è l'open show dell'Accademia, quindi artisti show, dentro 30. L'Accademia, e sono in tutto 500 studenti e tra dentro e fuori l'Accademia e sono sicuramente più di 50 cioè, diciamo un bel numero. Quanti sono gli studenti in totale dell'Accademia? Lo 2100. 2100. Sì. 2108 per essere. Adesso dipende, dobbiamo fare dei controlli. Dipende, diciamo che a novembre erano 24 erano 2108. Vabbè, adesso comunque facciamo cifra tonda, 2000. Esatto. Direi che sì. Però posso dire che rispetto a quello che mi chiedevi prima, due appuntamenti domani sono importanti, appunto dicevamo open show perché abbiamo sostanzialmente inauguriamo le mostre all'interno dell'Accademia con i nostri studenti, però due sicuramente c'è successo un piccolo inciampo ma adesso arriva nema problema, ed è uno un appuntamento al Parco Pasolini che viene a prenderti una nuvola e questo alle 10 di domani mattina e poi alle 5 e mezzo in Sala Borsa un evento legato a scenografia che è progettazione, mentre quello della mattina è un evento che facciamo nel parco con le opere di Nicola Zamboni ed è un intervento invece anche, sempre di scenografia, quindi diciamo che domani abbiamo due momenti in cui ci sono azioni legate alla scenografia in ambiti, uno Sala Borsa e nel Parco Pasolini lì insomma al pilastro. E sono cioè si segnalano questi due eventi rispetto a tutti gli altri perché precedono temporalmente oppure avvengono in contemporanea con le aperture delle varie gallerie? No, le gallerie aprono giovedì. Ah ecco, le gallerie aprono giovedì. L'appuntamento in galleria è da giovedì. Sì, e io infatti faccio proprio spontaneamente, ma è la realtà, lo spettatore ignaro perché non so niente, perché io fino a due giorni fa ero proprio in un'altra città e quindi vengo catapultata. Hai fatto bene. E sono... No, diciamo che gli appuntamenti a cui si faceva accenno prima, no? I 29 spazi nella città in cui galleristi, curatori hanno allestito e hanno lavorato con i nostri studenti, diciamo si apre giovedì e infatti giovedì l'appuntamento è quello Giovani Talenti in Galleria dalle 15 alle 23, quindi la possibilità di andare a curiosare e a visitare quello che abbiamo fatto in collaborazione con gallerie e spazi espositivi. Si consiglia la bicicletta? Sì, col monopattino, qualsiasi mezzo, un mezzo per viaggiare in città e non solo in città perché poi ci sono anche altri spazi. Quindi un mezzo agile per potersi spostare. Infatti ci sono anche delle cose che sono al di là del centro storico e quindi un po' più difficili insomma magari da raggiungere, però sono anche interessanti perché comprendono ad esempio al padiglione Esprinovo c'è un evento che è una mostra con il biennio di fotografia e con il, a seguito di un workshop che è stato fatto da Delita Usnibei, questa è un'importante artista. E un'altra cosa carina che dovrebbe essere anche un po' conviviale a zona Ortiva Erbosa, e c'è questo progetto anche socioculturale in collaborazione con Arco Iris e Massimo Bartolini, faranno da mangiare, so che insomma sarà partecipativa, l'offerta insomma gastronomica, sì, si direga lì. Beh, non è solo non questo, sarà, ovviamente, no, certo, però, però sappiamo che sì, negli eventi questa cosa, cioè, esatto, richiama, può attirare. Può attirare. When you are in here and you hide in tears, don't get lost in fear. You're made of atmosphere. Can you see me? Can you hear me? So the slivers in the still river. If you become invisible, can't hurt. L'elenco delle gallerie. Ah, questa, questa canzone me l'ha mandata Mia, che siccome è un po' invidiosa perché, perché lei è lontana e open tour invece si avvicina, e mi ha mandato sta canzone. Che Mia, la, dai, la ringraziamo. Lasciamo di sottofondo. Lasciamo di sottofondo. Noi ti pensiamo, sei con noi. Certo. La presenza fisica non è così importante. E dunque, dicevamo, e gli spazi, anche perché oltre al centro ci sono anche altri spazi, venivano nominati appunto dal direttore gli spazi di scenografia, poi c'è anche il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio e altri spazi in giro. La cosa importante da sapere è che la gente per orientarsi può trovare la piantina di tutti gli spazi e quindi anche le informazioni più importanti, o in Accademia o a Bologna Welcome, che è secondo me lo strumento principe per poter andare a fare il giro in bicicletta. Virtuale o comunque, solo? No, assolutamente, se andate sul sito dell'Accademia, diciamo che quella anche è la versione più aggiornata, perché chiaramente la versione cartacea manca di qualche aggiornamento, quindi quotidianamente il nostro, la nostra redazione aggiorna gli appuntamenti, esatto, ed è, c'è una pagina dedicata nella nostra home page. Allora, io ho guardato distrattamente, come faccio sempre, verso qualunque tipo di iniziativa artistica, e non sottolineo distrattamente, mi è rimasta in mente solo questa frase, che forse non cito nemmeno in modo corretto: cattivo carattere o brutto carattere. Chi è che ha voglia di raccontarmi l'origine di questo nome e a cosa esattamente dei 3500 eventi si riferisce? E si riferisce al tuo di carattere? Assolutamente, no. Un pessimo carattere. No, in realtà questa è, ogni edizione ha un sottotitolo, insomma una sorta di claim, e questo ci è stato proposto dal, dal grafico, cioè proprio nel progetto ci è stata lanciata l'idea di appunto dedicare quest'anno a questo binomio, good art, bad character, e mi è sembrato bello perché dà un po' l'idea di che cosa vuol dire anche presentare lavori dell'Accademia, perché ovviamente siamo belle arti, ma a questo punto belle e buone. Però quindi, non bei caratteri. Ma non necessariamente bei caratteri, anche perché insomma siamo un po' irriverenti, dobbiamo essere qualcosa di un po' fuori dagli schemi. Vedi, io pensavo invece che il brutto carattere si riferisse ai, ai font usati per la scritta open tour, che cambiano in continuazione. Assolutamente, questo è la terza versione, diciamo tre elementi. Uno riguarda ovviamente la propensione psicologica, no? Il buono, il cattivo carattere, poi abbiamo anche character come personaggio, voglio dire, si agisce, no? si vive, e ovviamente tutti noi, ma soprattutto i nostri giovani artisti, sono protagonisti, appunto, character di Open Tour. Il terzo è quello che diceva giustamente Stefano, ovvero character come carattere tipografico, e effettivamente sono la scelta di quest'anno è stata una scelta abbastanza radicale, ci è piaciuta per quello, perché sono caratteri mobili, i famosi caratteri mobili, sì, e soprattutto generative la composizione, e poi abbiamo scelto quest'anno questi colori fluo che proprio si contrastano molto bene con il nero invece rigoroso soprattutto delle si contrastano molto bene con la mostra che inaugura in Pinacoteca di fianco giovedì prossimo. Esatto, noi siamo molto contenti di questo, andremo a visitarla, ma sono convinto che avremo un'offerta alternativa, anzi forse potremmo fare un bel volantinaggio davanti invitando i visitatori. Questa cosa della Pinacoteca la devi spiegare, perché io è una battuta, se lo era, che io non ho capito, quindi anche il nostro ascoltatore, io paracadutata, devi spiegare un attimo. Proprio durante il giorno in cui inaugurano tutti gli spazi di Open Tour, la Pinacoteca inaugura una mostra che non c'entra con Open Tour, sì, e questo ha peggiorato il carattere, predisposizione psicologica di tutti. No, ma questa invece era Goudart, no, è vero, quella era Goudart. Ma è questa mostra che inaugura è nel nostro angolo della menzione, però. Certo, e quindi fra un po' la diciamo, perché noi per parco. Scusate, chi è il grafico che ha avuto questa bella idea? Chi è? Dei caratteri. Gianluca Sandrone. Ecco, insomma. Assolutamente, sì. È il nostro grafico, uno dei nostri docenti, a quale abbiamo affidato l'immagine coordinata di Open Tour di quest'anno, perché ci tengo a sottolinearlo, cioè Open Tour è veramente una sorta di progetto collettivo in cui tutti mettono un pezzo, i grafici fanno i grafici, gli scenografi fanno gli scenografi, e gli artisti fanno gli artisti. E ma quest'anno per la prima volta i curatori vengono dalla scuola di comunicazione, esatto, perché non era mai successo, e quindi ci sembrava opportuno inserire anche questa formazione, no? Che avviene all'interno dell'accademia. Sono di didattica dell'arte, certo. Sono del biennio, comunicazione e didattica dell'arte, e sono gli stessi che avevano anche preparato ad Arte Fiera le guide, perché facevano delle guide, mi ricordo, allo stand di Arte Fiera. Esatto. Questa si può dire è la novità di quest'anno, sì. Di Open Tour. Ogni anno c'è un pezzo di nuovo, c'è un'articolazione nuova, e quindi sta ingigantendosi un po' una pioggia. No, ma perché poi è articolato il mondo dell'arte, cioè anche le professioni del mondo dell'arte sono tante, oltre agli artisti. Ecco, adesso Giuseppe Lufrano, giustamente, che sta un attimo sul pezzo, perché tu insegni, ricordiamolo, il mercato dell'arte. Perfetto. Sì. E quindi giustamente ricordi, non ti volevo interrompere, le professioni, sono tante. No, sono le professioni messe in pratica. L'Accademia ha una serie di scuole che poi formano dei ragazzi, sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico. Tutto questo entra in Open Tour sulla produzione di qualsiasi cosa serva per realizzare un evento di questo tipo, che può essere anche può essere la curatela, ma può essere anche la grafica, può essere l'audiovisivo, cioè ogni scuola si è impegnata nel produrre qualche cosa per questa manifestazione, e secondo me io lo trovo molto importante questa cosa qua, perché oltre a fare una formazione teorica o come si può dire didattica da un punto di vista, però si concretizzano anche le cose, no? Cioè si mettono in pratica, si entra nelle gallerie facendo le mostre, nelle gallerie professionali, negli spazi no profit, e si entra anche con una guida, cioè non così random, che è messa in pratica dai vari docenti. Quindi i docenti fanno un progetto, questi progetti vengono presentati agli spazi e questi spazi accettano o meno i progetti. Poi io e Carmen abbiamo cercato di coordinare un po' tutte le cose. Questo ecco, viene perché fuori. Voi quale ruolo avete all'interno proprio di Open Tour? Siete coloro che tirano le fila di tutto? Sì, che organizziamo, se ci sono degli spazi bisogna mettere insieme tante personalità, tante esigenze, tutti devono essere rappresentati in maniera che non ci siano i sottorappresentati, ci sia per tutti una ottima possibilità di visibilità. Stiamo parlando dei corsi? Dei corsi, sì. Delle scuole, eccetera, anche perché l'Accademia forse magari sarebbe carino, l'Accademia è formata da vari dipartimenti, certo. Il Dipartimento di Arti Visive, il Dipartimento di Arti Applicate, il Dipartimento di Comunicazione Didattica dell'Arte e il Dipartimento di Restauro. E quindi questi dipartimenti poi si organizzano in corsi. Forse la gente non lo sa, quindi no, magari. Ma infatti secondo me è utile dirlo. Arti visive ha pittura, scultura, decorazione e grafica d'arte in triennio e biennio. Poi arti applicate è più grossetto, diciamo, c'ha scenografia, il triennio di cinema e televisione e il biennio di fotografia. Design del prodotto, design grafico e poi fumetto illustrazione e mi sembra di aver nominato tutto. Sì, diciamo che c'è tutto l'ambito. Sappiate che se ve ne siete dimenticati uno, sì. Poi adesso ne pagherete le conseguenze. Esatto, perché qua però sono tutte professioni queste, sì, vuol dire, che attengono a una formazione artistica, cioè vuol dire, quindi è importante questo aspetto. O di design, ma comunque insomma, creativa. E questo le mettiamo in pratica con Open Tour, cioè costruiamo questa grafica qua, questo documento che è una mappa, facciamo le mostre, facciamo gli audiovisivi, facciamo tutta la comunicazione, facciamo i testi critici, cioè secondo me proprio per vedere l'Accademia come un grande contenitore in cui veramente non è che uno esce che deve per forza fare l'artista, cioè possono esserci diverse professioni. Ma a questo volevo chiederti una cosa, Giuseppe Lufrano, le cose vengono realizzate a spese della, cioè la produzione delle opere, tutto autoprodotto. Non chiede l'Accademia un soldo a nessuno, cioè non ci sono fornitori esterni che lavorano per la, io non penso, adesso no. Qua abbiamo il direttore. Vabbè, asterisco con qualche fotocopia, no, chiaro, diciamo che questo possiamo dire con orgoglio, nel senso poi ovviamente finché ci sarà la possibilità è un progetto che non ha sponsor, però se qualcuno vorrà un giorno darci una mano ben volentieri. Anzi, però approfittiamo per lasciare un invito, esatto. Però diciamo che è un progetto che è nato con una dimensione di totale autogestione, di autosufficienza anche economica, nel senso che la maggior parte dei progetti poi sono anche i progetti che si fanno durante l'anno, quindi è ovvio che i materiali e tutto quello che può servire anche a realizzare i progetti sono già stati pensati come acquisti e fanno parte del materiale didattico. Esattamente, del materiale didattico. E poi quello che possiamo fare invece, ecco, quello che abbiamo sicuramente, sul quale abbiamo investito, è costruire questa cornice e costruire anche la possibilità della relazione con le gallerie. Ma l'invito che faccio anche Open Show, che diciamo è una sorta di sottinsieme di Open Tour, perché Open Show è la definizione con la quale abbiamo presentato la mostra interna. Certo. È fatta esattamente utilizzando tutti gli spazi che fino all'altro ieri erano i laboratori e le aule in cui si faceva lezione. Ti interrompo perché c'è la pubblicità delle 8:30. Però continueremo poi a parlare dei benefattori di Art Up subito dopo. Esatto. Molto bene, assolutamente. A fra poco. Cox spaziale. Ecco, siamo tornati qua per parlare di Open Tour. Non so come faremo noi con l'angolo della menzione, Stefano, perché è lunghino. Ho fatto. Facciamo lo stesso. Quando lo vuoi fare l'angolo? Quando vuoi tu. Non so, o ci togliamo il pensiero subito così vediamo quanto tempo ci resta. No, anche perché poi c'è molta roba di Open Tour dentro alla menzione, naturalmente. C'è anche, ci sono anche due o tre cose che non c'entrano con Open Tour. Tipo quella della Pinacoteca, tipo per esempio. Tipo la mostra della Pinacoteca. Non lo so, cosa dite? Ospiti, ospiti in studio? Finiamo il discorso benefattori. Ah, giusto, sì, perché alla fine di tutto questo... Tutto autoprodotto, però comunque ci vengono sono quattro... Vengono dati dei premi, che però vanno totalmente agli artisti. Ai giovani talenti. Teniamo neanche un centesimo. Questo è legato ovviamente alla collaborazione ormai pluriennale con Fondazione Zucchelli, perché c'è questo premio appunto Artup che coinvolge una serie appunto di benefattori che ci permettono di premiare artisti che all'interno degli spazi espositivi esterni, quindi nelle gallerie, ovviamente una giuria che è sempre presieduta da Lorenzo Balbi fa un itinerario di un giorno e mezzo andando a vedere i lavori e quindi a quel punto selezionando giovani artisti che potranno essere premiati con questi premi: il premio Banca di Bologna per la critica, il premio Fondazione Carisbo e il premio Collezione Falconi Lady per i collezionisti, il premio Fondazione Carisbo per la grafica e l'illustrazione e il premio Fondazione Lucio Saffaro per il rapporto tra arte e scienza. Quindi sostanzialmente questo ci ritroveremo venerdì pomeriggio, no, a conferire i premi che la giuria avrà individuato tra i giovani artisti nei vari spazi appunto della città di Bologna. Perché 500 artisti No, però 500 ci sono anche quelli dell'Accademia, quelli di Open Show che non partecipano al premio. Questi qua sono solamente quelli negli spazi espositivi esterni. Ho capito. E perché non partecipano 350. Perché i progetti esterni sono quelli coordinati, selezionati dai vari docenti. In Accademia hanno tutti la possibilità di esporre il proprio lavoro all'interno delle aule. Quindi ma diciamo non tutti che... sono a un livello per essere esposti e per entrare dentro il sistema. Quindi diciamo la Open Show ti dà un po' lo spaccato di quello che si fa in Accademia in generale, quindi se uno vuole avere il polso della situazione in modo più orizzontale va ad Open Show e si fa un'idea di quello che combinano. Invece sono progetti dedicati solo quelli esterni. Esattamente. Ma non solo, ma quelli che vanno fuori sono il terzo anno del triennio e il primo e secondo anno del biennio, quindi quelli che già hanno fatto un minimo di percorso, hanno avuto modo di maturare un pochino di più la propria ricerca, e all'interno di questi comunque c'è un'ulteriore scelta. Sono 500 studenti su 2000 più o meno, il 25%. Gli altri 1500 stanno incazzati tutti. No, vabbè, saranno in Accademia. Sono in sessione. Oppure stanno studiando per gli esami, perché poi la settimana prossima cominciano gli esami. Quindi sono quelli che poi prendono 30 lode e hanno i voti più alti, mentre vi fanno Open Tour invece magari arrivano al 23. Adesso a parte le battute, volevo sapere invece quanti docenti partecipano, tutti? Devo dire non tutto il corpo docente, è chiaro che la maggior parte, perché tutti i docenti di indirizzo, tutti i docenti che sono coinvolti nei corsi che abbiamo citato prima, sono veramente coinvolti nel, ecco, più difficile che docenti teorici, docenti abbiano una... tranne quelli di didattica dell'arte, esattamente. Sì. Oppure appunto storici dell'arte come Carmen Lorenzetti, che ovviamente partecipa, diciamo che o restauro, perché non sono ancora rotti, non sono ancora no rotti. Ecco, diciamo che restauro non partecipa, arriva dopo Open Tour, esatto, quando perché tutto il pubblico ha distrutto dopo la festa, diciamo che restauro lavora poi per altri appuntamenti nel corso dell'anno, quindi c'è comunque una grande partecipazione, anche perché i docenti poi sono i principali referenti degli studenti che allestiscono e che devono presentare i propri lavori, insomma, quindi c'è sempre un dialogo molto serrato e ci sono molti docenti che appunto seguono e sono presenti negli spazi. Ha capito, sarà il 25% anche dei docenti, possiamo dire? Sicuramente. Potrebbe essere. Diciamo che va bene, quindi siamo a 25%. Se i docenti incardinati sono 122, il 25%. Di 122, la prof di matematica è lei. Esatto. Vabbè, dai, sono sempre 25, esatto, meno, dai, esatto. Una trentina. Assolutamente, 30 docenti posso garantire. Comunque, ridendo e scherzando, siamo arrivati al momento delle menzioni. Eh sì, perché senza anticipare nulla, anzi, sì, persino in ritardo. Sì. Anche un pochino in anche ritardo. Un pochino in ritardo. Anche un pochino in ritardo. Quindi, eccoci qua. L'angolo della menzione. Chi comincia? Cominciate voi. Martedì 24 giugno, che sarebbe domani, dalle 10 alle 18.30, si aprono le porte della storica istituzione bolognese con Open Show, un ampio e poliedrico percorso espositivo con opere di oltre 500 studentesse e studenti dei dipartimenti di arti visive e di progettazione e arti applicate, visite guidate a cura del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte. Tutto questo naturalmente all'Accademia di Belle Arti di Bologna, via Belle Arti 54 a Bologna. Se non sapete l'indirizzo a questo punto, bravissimo. Infatti. Sempre martedì 24 giugno, ore 18, Gargoyles, mostra personale di Liza Russo a cura di Alessandra Carini, Agim Sacco e Stefano W. Pasquini. Che sono io. Come non si pronuncia? Lizarus è un'artista fiorentina con base a Bologna, parte attiva del collettivo Checkpoint Charlie. Lavora tra grafica, serigrafia, illustrazione e video. Tutto questo al MAG, Magazzino Art Gaze, via Alfredo Testoni 5D a Bologna. Carmen Lorenzetti nel frattempo mi ha fatto pat pat, non so se perché mi compatisce, perché un'artista fiorentina espone a Bologna, è stata sottratta all'Accademia in cui io sono una persona molto affettuosa. Ho capito, cioè, ha pensato che questo mi avrebbe punto sul vivo. Può darsi, non lo so. Martedì 24 giugno alle ore 18. Double Show, Sarcastic Collage, Plus Open Tour 2025, Off Season Tour, punto interrogativo, mostra personale di Sarcastic Collage e Strati, narrazioni visive nella nuova grafica d'arte, con lavori di Silvia Cogua, Alice Spadaro, Sofia Castagnola e Castagnoli, Joy Coca, quattro giovani artiste che con una selezione delle loro opere propongono una panoramica sulle nuove tendenze dell'arte contemporanea. Boa Spazio Arte, via Barberia 24/A Bologna. Secondo me questa era anche questa curata. No. Martedì 24 giugno, sempre alle 18.30, naturalmente, nell'ambito di Open Tour 2025, adiacente presenta Gli Occhi Bruciano a cura di Ivana Spinelli. Alle ore 20, dalle ore 20 alle 20.30, improvvisazione elettroacustica con Tetra Cab e Brigitte Bardot. Poi Matteo Coceva, Tommaso Grandi, Edoardo Tampieri, Valerio Timo, Agnese Mussari. Alle ore 20.30 fino alle 21.15 DJ set di Camuna, Camilla Credendino, Francesco Laghetti. Tutto questo ad adiacenza in vicolo Spirito Santo 1B a Bologna. Mentre continuiamo con mercoledì 25 giugno ore 18, This is what we think should happen, Stand by me adesso. Gli studenti del biennio di fotografia e partecipanti del workshop condotto da Edelita Asni Bey hanno scelto di convivere con gli ambienti del padiglione attraverso progetti fotografici appositamente selezionati, installazioni e pratiche di condivisione. Con il supporto di Anna De Manicor, Fabiola Naldi, Antonio Rovaldi e Davide Tranchina, in collaborazione con Closer, Becoming del Comune di Bologna a cura di adiacenze. Questo al padiglione Esprit Nouveau in Piazza della Costituzione 11 a Bologna. Mercoledì 25 giugno alle ore 18, Taking Care, azioni di cura urbana, progetto fotografico ed editoriale a cura di Paolo Binante e Gino Giannuizzi, in collaborazione con Camilla Casadei Maldini, Attitude Spazio delle Arti, che coinvolge bienni di fotografia e pittura arti visive e prevede anche delle affissioni stradali che occuperanno gli spazi CIP in via San Giacomo, Neon via San Donato 24/B e sempre su Ababo, potete trovare i dettagli. e lo scoop è che riapre la Neo, la Galleria, esatto. Neo che abbiamo raccontato perché tu non ascolti Coxo Spaziale. C'era Gino la settimana scorsa che ci ha raccontato questa cosa. Hai capito? Dopodiché, fantastico, mercoledì 25 giugno dalle 19:30 abbiamo Sogno e Confessione nel programma di Open Tour 2025, la mostra a cura di Greta Fanni presenta i lavori di una selezione di studenti del corso di pittura del prof Leonardo Santoli, che salutiamo, nell'ambito del workshop Materia Superficie. Questo a Want Unconventional Lab in via Saffi 16/2. Sempre mercoledì al Parco della Montagnola, vado io? Vai. Filla, A Brand New World, una sfilata che vedrà protagonista il biennio di fashion design a cura di Betty Zanelli, organizzata in collaborazione con la Fondazione Rusconi Ghigi negli spazi di Filla, il nuovo centro per l'ambiente e la sostenibilità nel Parco della Montagnola, vicino alle tematiche protagoniste di questo evento. Questo appunto al Parco della Montagnola, mercoledì alle 20:30. Giovedì lo facciamo leggere a Fornaroli. No, giovedì 26 giugno, non gli abbiamo dato un foglio, non si chiede troppo. Giovedì 26 giugno. Tutti a memoria. Dalle 15 alle 23. Contemporaneamente in 29 tra gallerie e spazi privati inaugura la rassegna Giovani Talenti in Galleria a cura di Carmen Lorenzetti e Giuseppe Lufrano, organizzata dall'Accademia di Belle Arti con la collaborazione dell'Associazione Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea Confcommercio Ascom Bologna, con protagoniste assolute le opere di studentesse e studenti dei bienni e dell'ultimo anno dei trienni. Accademia di Belle Arti, via Belle Arti 54 a Bologna. Dopodiché, naturalmente, in realtà l'unico posto in cui non dovete mancare è il Museo Lercaro, dove troverete i lavori della nostra fantastica Lisa Mignemi, che oggi è la regia. Infatti siete tutti invitati, ovviamente non esporrò soltanto io ma tantissimi altri artisti, siamo in 24 in totale, e è una mostra organizzata da Marinella Padermi e dal biennio di didattica dell'Accademia di Belle Arti, quindi è stata una bellissima iniziativa, quindi alle ore 18 giovedì 26. Mi sono divertita molto, ho pianto tanto. Mi sono divertita molto, ho pianto tanto. Il titolo della mostra o il titolo della tua opera? Il titolo della tua opera. Nessuna delle due. Era una citazione colta da Fellini che solo il nostro amico Massimo Pulini potrebbe aver colto. Giovedì 26 giugno alle ore 17 abbiamo anche Iperort, un progetto artistico multidisciplinare e socioculturale che riflette sullo spazio degli orti sociali della Bolognina, inteso come contesto di collaborazione e creatività conviviale, realizzato a cura del collettivo Cabba, Simona Maria Pagano e associazione Otto Volante in collaborazione con Arco Iris e Massimo Bartolini. Questo è Zona Ortiva Erbosa in via Erbosa 17 a Bologna. Non contenti, giovedì 26 giugno, come dicevamo, alle 18, i Musei Nazionali di Bologna con il Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, del settore di Musei Civici di Bologna, presentano alla mostra Il Giardino delle Risonanze. La Pinacoteca Nazionale di Bologna incontra il Mambo, ideato da Costantino Dorazio e Lorenzo Balbi, a cura di Giulia Adami e Valerio Mezzolani. Il fulcro dell'esposizione negli spazi del Salone degli Incamminati della Pinacoteca consiste in un percorso di dialoghi tra opere principalmente provenienti da depositi dei musei nazionali e artisti rappresentativi della scena bolognese contemporanea selezionati per l'iniziativa, no? Perché, voglio dire, l'hanno selezionati, non li hanno chiamati tutti. Presso il Mambo, sono 48. Un focus è pensato per mettere in luce le risonanze che nascono dall'incontro di collezioni emblematiche straordinariamente eterogenee come quelle dei due musei bolognesi sedi della mostra. La mostra evoca un luogo poetico, un immaginario giardino culturale dove sono simbolicamente rappresentati gli equilibri e le contraddizioni di umanità e natura. Tutto questo alla Pinacoteca Nazionale in via Belle Arti 56 a Bologna. Poi ci chiediamo come faccia ad avere il dono dell'ubiquità Lorenzo Balbi, che è in contemporanea a fare la giuria. Ma non sarebbe Lorenzo Balbi, esatto. Lo vedremo. Queste sono le cose belle. Infatti, è stato scelto apposta per questo Guida del Mambo, perché ha questa capacità di essere dovunque. Venerdì 27 giugno alle ore 18 invece appunto ci sarà Art Up, il premio della critica dei collezionisti, degli artisti e della grafica e illustrazione, e per il rapporto tra arte e scienza, cerimonia di premiazione delle opere vincitrici di Open Tour 2025, iniziativa organizzata da Fondazione Zucchelli e realizzata con il sostegno di Banca di Bologna, Fondazione Carisbo, Collezioni Falconi e Lei di Bergamo e Fondazione Lucio Saffaro. Saffaro, credo. Ma io l'ho pronunciato come l'ha pronunciato Fornaroli, però. Tutto questo nella corte dei Terribilia dell'Accademia di Belle Arti, in via Belle Arti 54 a Bologna. mentre venerdì dopo, quando avete finito di bere il prosecchino gentilmente offerto dal nostro qui caro Enrico Fornaroli, abbiamo dalle 19 alle 23 la gelateria Sogni di Ghiaccio, propone Marcello Galvani, non importa che mi richiami, per cui non lo richiamiamo. Via Tanarivecchia 5A a Bologna. Non lo richiamiamo. Sempre venerdì dalle 21 invece abbiamo Ababo Cinema 2025, la proiezione dei lavori del triennio in linguaggi del cinema e dell'audiovisivo e del biennio di cinema e animazione sperimentale, una proiezione di video a tema del titolo Corpi che parlano. Questo è al Cinema Galliera in via Giacomo Matteotti 27. Velocissimissimissimi. Rimane sabato 28 giugno alle 17, vai tu. Accademia di Belle Arti, Aula Teatro, Voglio un Paese, spettacolo basato sul testo del poeta e drammaturgo contemporaneo Andreas Florakis, realizzato dalla Scuola di Scenografia dell'Accademia di Belle Arti e con la collaborazione del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, con il coordinamento di Nicola Bruschi e Franco Savignano. Ore 20, Open Party, Accademia di Belle Arti, serata di chiusura di Open Tour, tutti in dance. Tutti in dance, in via Belle Arti 54. Dopo questa bellissima maratona di menzioni non siamo riusciti a menzionarle tutte, quindi siete invitati a consultare il sito dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Di Bologna. Di Venezia. Buonanotte, di Venezia. Io sono arrivata. Anche oppure quella di Firenze, dove naturalmente troverete tanti altri. Ci sono 25 accademie legalmente. Sai perché? Perché stavo pensando, io ho studiato a Venezia, stavo pensando che a Venezia tutta questa cosa non esiste. Esatto, loro avranno non anche esiste. Una biennale d'arte internazionale, però non hanno. Ma non fanno niente. No, comunque di Bologna, e dove potete trovare il programma completo. Insomma. Basta andare su ababo.it. Esatto. E cercare la grafica. Volevo aggiungere una piccola cosa, che le esposizioni continuano anche dopo sabato. È vero, è vero. Cioè, nel senso ecco, che allora, non è che uno si deve per forza ammazzare. Questa no, è importante. No, in effetti, questa giovedì, a questo punto gli spettatori sospirone di sollievo, esatto. Perché cominciavano a essere un po' preoccupati. In effetti, no? Giovedì, spesso, quando prendete su il volantino con la mappina, andate a vedere la lista e c'è scritto quando le mostre finiscono. Esatto, almeno una decina. Infatti, volevamo chiamarlo Open Tour de Force. Questo è il titolo dell'anno. Beh, l'anno prossimo. L'anno prossimo, l'anno prossimo. Sotto titolo del Force. Esatto. Io lo Open Tour de Force. Open Tour de Force. E l'anno prossimo penso che produrremo le bustine di magnesio. Quello sicuramente, sì. Ma anche un libricino, una cartellina dove chi vedrà tutte le mostre, passerà in tutte le gallerie, avrà premi e cotillon. Allora io adesso lancio un'altra, visto che stiamo facendo brainstorming, visto che fra un po' andremo al Capnaum dove ha inaugurato Marco Ghigi, allora visto che lui è nel campo farmaceutico, facciamole preparare a lui le bustine di magnesio. Perfettamente d'accordo, sponsor, abbiamo già lo sponsor. E magari anche qualcosa per rilassare un po', esatto. Per il brutto carattere. Esatto. L'anno prossimo gli dà la medicina, quindi... Okay. L'anno prossimo melatonina e magnesio. Ecco, perfetto, mi sembra. L'anno prossimo speriamo che il comune di Bologna, Figa e tutta la città manifesti. Non porta bene dirlo, perché l'anno scorso l'abbiamo detto, ma non è successo niente. Quest'anno sono apparsi alla conferenza. Da qualche parte è successo. Quindi si sono. Allora insistiamo. Quest'anno abbiamo fatto la fissione fluo. Ah, vedi. Però il problema è che gli spazi pubblici sono fuori dai viali. Tipo a Rovigo. No, fuori dalle porte, quindi dei viali oltre, e non avevamo ovviamente, non sono 100.000 spazi espositivi, ma ci sono i poster flow in giro. E questo potrei lanciare questa ipotesi. Facciamo un contest Instagram. Chi vede un manifesto Open Tour 2025 lo fotografa e lo condivide con Instagram dell'Accademia Ababo Bologna. E vince. Beh, intanto condividiamo. Poi è un contest senza premi. Secondo me si poteva vincere. Vince una bustina di magnesio. No, vince chi ha più like. Scusami. Infatti, chi ha più la like, soddisfazione dei like postando i poster fluo, certo, nella periferia di Bologna, chi vince almeno i patachini di ottenere. No, assolutamente. Io voglio la bustina di magnesio. Avrai la tua bustina di magnesio. Un sacchetto della giovedì della borsa di Ababo piena di bustine di magnesio. Grazie. Per affrontare l'estate in scioltezza. Prima di accomiatarvi, avete qualche cosa qualcosa che vi siete dimenticati di dire? Qualcuno da salutare, da ringraziare? No. No, una cosa che voglio aggiungere è questa, che quest'anno appunto negli spazi anche del venerdì e del sabato abbiamo lavorato anche con i nostri studenti, che in particolare con Baracca, che è questa installazione ludo-meditativa nel nostro cortile, realizzata da un gruppo di nostri studenti. Abbiamo pensato che a un certo punto si potesse collaborare e quindi abbiamo affidato a loro la dimensione, diciamo, musicale e anche di intrattenimento dell'open party. Bellissimo, questo è un'altra novità di quest'anno. Bellissimo, alla fine. Dunque, insomma, quindi è tutto gestito artisticamente musica dall'inizio a cura alla di Bar fine. Baracca, esattamente, non poteva essere altrimenti. Si va tutto in baracca. Bravissimo, questo è lo che abbiamo proposto. Esatto. Molto bene, io vi ringrazio tantissimo per essere venuti qui, per avere endurato questi simpatici 38 gradi che abbiamo in studio a Radio Città Fuggico, ma anche fuori. Grazie a voi. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie. Quindi Giuseppe Lubrano, Enrico Parnaroli, Carmen Lorenzetti, e naturalmente vi salutiamo. Io ero Lisa Miniemi, io ero Stefano Pasquini, io ero Chiara Pergola, e io ero Lisa Miniemi. Ah, ok, ci sono due Lisa Miniemi e una Chiara Ferro, ma va benissimo così. Questo naturalmente era Coxo Spaziale. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, dove parleremo di pittura. Parleremo di pittura lunedì prossimo. Quindi ci salutiamo con speciale dolore, con le parole meravigliose del nostro direttore, poeta, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla, che è sempre vomito di speciale. Marco Roma. Ciao. Lunedì prossimo, dai. Mi fa venire il vomito la città. Cosa succede? Qualcosa non va. Buongiorno, l'arcobaleno più alto che c'è, lo sognavi solo insieme a me, l'arcobaleno più bello che c'è, lo sognerai sempre insieme a me, da Marco Roma, buongiorno. Quando non sei più qua, prenoto il dermatologo, vado dallo psicologo, e poi mi viene il vomito. Il dermatologo, vado dallo psicologo.